nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta. Questa è la nostra ultima puntata prima della pausa estiva, ma noi continueremo a farci compagnia insieme con il meglio di Nessuna è Perfetta, che vi accompagnerà in spiaggia, in montagna, in città mentre state andando a lavorare, tanto per non perdere le buone abitudini e per non dimenticare anche d'estate che il multitasking è una fregatura inventata per farci sentire in colpa. Questo ricordatevelo anche quando, mentre sarete sotto l'ombrellone, cercherete contemporaneamente di seguire quella vecchia pratica che è rimasta in ufficio e senza la quale i colleghi non possono andare avanti, e di fare il castello di sabbia col vostro primogenito e contemporaneamente organizzare la cena con gli amici a casa la sera. Tutto non si può fare. Relax, soprattutto d'estate. Ma nella nostra ultima puntata non possiamo non tenere conto di quella bomba che è scoppiata a Londra e dintorni, e che in qualche modo noi avevamo raccontato un po' così, sognando, immaginando che se Brexit fosse andata come poi è effettivamente andata, magari ci sarebbe stato ci sarebbe stata un'occasione in più per Milano. Pensavamo a Milano come piazza finanziaria e magari tanti lavori in più per le tante bravissime analiste finanziarie, assistenti di tutto un po' che a Milano vorrebbero lavorare. Bene, le nostre previsioni si sono avverate, Brexit è andata come è andata, e a questo punto non rimane che approfondire ulteriormente il tema, pensando a quello che può succedere se davvero in parte gli headquarters della capitale britannica si sposteranno sul continente, e approfondendo un po' anche tutto quello che è successo. L'agente provocatore di oggi è l'economista Francesco Giavazzi, che proprio sul Corriere della Sera aveva pronosticato l'uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea e l'ipotesi che questo potesse rivelarsi una grande occasione per Milano. Buona domenica, professore. Ma l'eventuale uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea potrebbe essere, lei dice, una grande occasione da cogliere per Milano, a patto che si verifichino tre condizioni. Quali? La grande occasione deriva dal fatto che alcune istituzioni finanziarie si sposteranno da Londra sul continente, e ci sono tre posti ovvi: Parigi, Francoforte e Milano. E dipende dalle condizioni che offrono. Quindi la prima condizione è la regolamentazione, cioè bisogna che ci sia una regolamentazione dell'attività finanziaria di buona qualità, e per regolamentazione non si intendono tanto le regole, che più o meno sono ormai uguali in tutti i paesi dell'Unione Europea, ma come le regole vengono applicate, quindi le istituzioni che fanno applicare che vigilano sulle regole, cioè in particolare la Consob e la Banca d'Italia. E secondo me bisogna fare una riflessione, soprattutto alla luce di quello che è accaduto con i bond subordinati venduti a clienti ignari in Toscana, se queste istituzioni fanno bene il loro mestiere. Seconda cosa è la tassazione. Noi abbiamo, si sa, livelli molto elevati. Si potrebbe pensare a una cosa che già accade per i ricercatori: se io faccio venire all'università un ricercatore che rientra dall'estero o addirittura straniero, per alcuni anni c'è un livello di tassazione molto agevolato, non per sempre, per alcuni anni, per invogliarlo a trasferirsi in Italia. E terza cosa, la qualità della vita, perché poi qui non sono singole persone, sono famiglie che eventualmente si spostano, quindi ci vogliono buone scuole, ci vogliono città attraenti da tanti punti di vista. Diciamo, Milano parte avvantaggiata, che secondo me è più attraente di Francoforte, però c'è anche qui molto da fare. Quindi, tre punti. Ora, il secondo e il terzo, diciamo,

senza ombra di dubbio. Senza campanilismi. Bene, io ringrazio Letizia Moratti, vi ricordo il suo libro pubblicato da pochissimo, Milano tra storia, realtà e sogno. Buona domenica Letizia Moratti, noi torniamo tra pochissimo. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia. Ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Da lunedì a venerdì alle 17. Solo su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia. Ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Da lunedì a venerdì alle 17. Solo su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. È il momento della lettera della settimana e, come sapete, questa è l'ultima puntata prima delle vacanze estive, ma voi potete continuare a scriverci perché noi le collezioneremo e ne torneremo a parlare alla ripresa dopo le vacanze. L'indirizzo lo sapete, è nessunaeperfetta@radio24.it. E la lettera è ovviamente legata alla questione di cui stiamo parlando dall'inizio della puntata. Vivo a Londra da circa 20 anni e lavoro in una banca d'affari. Qualche mese fa mi è capitata un'offerta di lavoro a Milano, offerta che onestamente pensavo di declinare. Oggi, alla luce di quanto è successo il 23 giugno e all'ipotesi di uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, ammetto qualche dubbio. Che succederà a noi stranieri a Londra? E quali ripercussioni avrà il mio lavoro? È vero, come ho letto di recente, che la Brexit potrebbe avere risvolti positivi per altre città italiane e forse anche per Milano? In questo caso non mi dispiacerebbe affatto tornarci. Giorgia. E noi abbiamo due super esperti che naturalmente sono a Londra e da lì ci raccontano quello che stanno vedendo in queste ore e che consiglio darebbero a Giorgia. Claudia Parzani, avvocato, partner di Linklaters, nominata avvocato dell'anno da Top Legal e secondo il Financial Times tra i 10 avvocati più innovativi del 2013. Buona domenica, avvocato Parzani. Buona domenica, grazie Maria, buongiorno. E Marco Mazzucchelli, Managing Director Julius Baer, che di solito sta a Zurigo, ma questa volta è a Londra anche lui. Buona domenica Marco Mazzucchelli. Buona domenica. Allora, chiedo a entrambi, vi ha stupito che la Gran Bretagna, Londra, abbia reagito in modo così sotto shock? Non sembrano più gli inglesi di una volta. Qualcuno ha detto si sono comportati come se fossero spagnoli o italiani. Mazzucchelli e Parzani. Certamente sì, è stata una sorpresa, soprattutto per tutti noi che lavoriamo nel settore finanziario, d'altronde il movimento dei mercati lo conferma. Siamo stati tutti vittima di un abbaglio, cioè quello di pensare che il modo con cui ragionavamo noi, ragioniamo noi, sia quello che poi prevale a livello di elettorato in generale. Siccome però, mentre nei mercati chi ha più soldi li muove di più, forse abbiamo confuso il fatto che invece nel caso di un elettorato ogni voto conta uguale. Certo. Io pensavo, Parzani, che chi, come lei, lavora per uno studio che ha il proprio quartier generale a Londra, in questo momento ha proprio il polso della situazione. Che cosa succede? Che previsioni si fanno nel mondo degli affari a Londra, dove si trova lei? Allora, le previsioni sono ovviamente le più varie, perché è ovvio ed è risaputo in questo momento che le scelte non sono state fatte, no? Nel senso che l'unica cosa che è stata fatta è stato votare il referendum. Ma il referendum, forse, se posso, ha detto che cosa gli inglesi non vogliono, non ha detto che cosa gli inglesi vogliono. E da qui in poi si è aperta effettivamente quella che è un'ampia rosa di opportunità e che sarà legata ai mesi futuri. Quindi quello che posso dire è che, come diceva bene anche Mazzucchelli, la situazione del mondo della finanza inglese è sicuramente quella di sorpresa. Io ogni tanto penso che forse sappiamo tutti ascoltare poco. Ho passato parecchio tempo quest'anno in Inghilterra e chiacchierando con le persone, effettivamente le persone che ho incontrato avevano tutta una visione molto chiara del fatto che l'uscita era un'opportunità per l'Inghilterra. E lo sarà davvero? Lo sarà davvero? Cioè, magari tra due anni stiamo a vedere che l'Inghilterra se la passa benissimo? Devo dire che sono sempre una positiva, però temo che effettivamente sia più facile per l'Inghilterra. Vorrei chiamarlo divorzio, no? Vorrei chiamare innanzitutto quello che sta succedendo un divorzio, perché effettivamente questo è, quindi non è una cosa, non è un effetto sorpresa, non è una cosa devastante come ne abbiamo vissute negli ultimi anni, penso al 2008 e tutto, è un effettivo divorzio e come tutti i divorzi prende tempo, sarà sofferto, prevederà degli accordi, prevederà la divisione di certe cose, però vorrei dire che c'è sempre una parte in ogni divorzio che ne esce meglio. Oggi, se dovessi dire la mia, forse ne uscirà meglio UK. Mazzucchelli, proviamo a vedere se c'è qualche lato vantaggioso per l'altra parte, per il continente europeo. Lei era già stato ospite di questa trasmissione e avevamo parlato della possibilità che Milano potesse diventare la sede dell'autority bancaria o di un'altra authority. Esiste ancora questa possibilità? E secondo lei che cosa dovrebbe fare Milano per portarsi a casa un headquarter importante, quindi nuove possibilità di lavoro e quindi dare la chance a Giorgia che ci scrive di tornare nel capoluogo lombardo? Anzitutto credo che se l'Europa non recepisce il segnale che questo referendum ha dato, non penso andrà molto lontano in generale. Mi sembra ci sia un'indicazione molto chiara del fatto che la disconnessione tra l'Europa dei cittadini e l'Europa delle autorità è percepita in modo molto forte. Quindi mi auguro che questo sia un catalizzatore per fare un cambio di policy a livello europeo importante, rivedendo le priorità. Nel caso italiano devo confessare che ho qualche perplessità, perché prima di tutto i tempi sono ancora decisamente prematuri, nessuno prenderà una decisione in questo momento. C'è anche una possibilità che forse alla fine si trovi una situazione di compromesso, di affiliazione. Per cui non si sposta nessuno, lei dice, Mazzucchelli, restano tutti a Londra. Io credo di sì, cioè lo status quo è comunque la soluzione preferibile, credo che alla fine il pragmatismo inglese prevarrà se solo dall'altra parte c'è un po' di buon senso. Ma poi possiamo dirlo con franchezza, l'Italia finora ha fatto molto poco per meritarsi qualunque tipo di attenzione. Non ci sono state iniziative pro business da parte del governo. Se vogliamo portare l'autorità finanziaria, mi sembra che il nostro settore finanziario non sia esattamente il modello di riferimento in Europa, e anche dal punto di vista puramente del marketing e della sensibilizzazione commerciale non abbiamo fatto assolutamente nulla. Quindi allo stato attuale credo che soltanto un soggetto in via di pensionamento possa pensare di trasferirsi a Milano in Italia, di certo non si può fare business. Mamma mia, proprio allora non sarà il consiglio che dovremmo dare a Giorgia, che invece non mi pare la nostra ascoltatrice in via di pensionamento. Claudia Parzani, dunque a chi vive a Londra e magari comincia ad accarezzare il sogno di tornare a Milano, dico Milano perché la piazza finanziaria in Italia può essere solo quella, che cosa possiamo dire? Continua a coltivare questo sogno oppure non ci mettere troppo il cuore sopra perché poi non si realizzerà? Se posso, io vorrei dire intanto a chi vive a Londra che le esperienze all'estero si chiamano esperienze perché poi prevedono un ritorno, no? E credo che la piazza milanese, forse perché io ci sto e quindi è una piazza che vivo, è una piazza che ovviamente non gode del fermento magari che c'è a Londra, ma è una piazza interessante. Soprattutto vorrei dire a Giorgia che tutti gli italiani hanno bisogno di un rientro in patria, di cervelli che sono stati contaminati positivamente, se posso, da esperienze estere. Quindi l'idea di ritornare, probabilmente di pensare a un rientro, di pianificare un rientro nei prossimi anni, proprio mentre questo divorzio in qualche modo verrà siglato, potrebbe essere sì qualcosa dettato dall'opportunità che si andrà a creare relativamente al tema dell'Europa, ma anche dettato, secondo me, al bisogno che l'Italia ha di persone che vengono e fanno quella che gli inglesi chiamano appunto cross-fertilization. Sì, è vero, avvocato Parzani, ma una torna lasciando Londra se c'è qualcosa di almeno altrettanto appetibile. La domanda che le faccio è, è troppo presto per fare previsioni, non sappiamo se un'authority farmaceutica o piuttosto finanziaria, ma Zucchelli era piuttosto scettico su questa ultima ipotesi, ma comunque non sappiamo se qualcosa si trasferirà mai da Londra e tantomeno sappiamo se sceglierà Milano come headquarter. La sua sensazione che qual è? La mia sensazione è che è vero che non è scontato, è vero anche che l'Italia non ha authority e quindi rispetto agli altri secondo me è un paese che diventerà più ovvio per essere sede di qualcuna delle autorità che verranno spostate dal Regno Unito, quindi secondo me su questo potrei scommettere che l'Italia vincerà qualche placeholder. Dall'altra parte vorrei però anche dire che per le persone di talento mi sento di dire che nel mercato italiano comunque si è trovato uno spazio nel mondo della finanza, quindi portando l'esperienza forse qualcosa si può trovare. Tanto più mi viene da dire che l'esperienza internazionale sembra essere sempre più richiesta. A questo proposito e in chiusura vorrei chiedere a tutti e due, cominciando da Mazzucchelli, a proposito di esperienza internazionale sempre più richiesta, il nuovo amministratore di Unicredit ne ha tanta di esperienza internazionale, ma appunto è un francese, Mustier, e non è un italiano. Mazzucchelli, che ne pensa? Qui in Italia ci sono stati articoli anche un po' critici, perché si è detto si scelgono sempre manager francesi, stiamo diventando una colonia. Forse allora andrebbe suggerito a Giorgia di cambiare cittadinanza, se magari prendesse cittadinanza francese avrebbe più chance. Io credo che forse il contingente più punito sia quello degli italiani che sono all'estero, cioè quelli sicuramente non sono molto desiderati perché hanno cominciato a pensare in modo internazionale, ma forse danno più fastidio in Italia. Quindi da quel punto di vista certamente non ci sono prospettive molto buone. Io credo che nel caso specifico sia stata una scelta ottima da parte del gruppo Unicredit, è una persona che conosco personalmente, Jean-Pierre Mustier, di grandissimo livello, un professionista molto serio, una persona di mercato con grande competenza di risk management, grande competenza di gestione di complessità e secondo me anche relativamente incontaminato e asettico rispetto a possibili emotività domestiche. Rispetto ad alcuni dei nomi alternativi che erano circolati nei giorni scorsi, non so quanto veritieri, secondo me si è fatta la scelta migliore, cioè meglio uno straniero di grande livello che un italiano di livello inferiore. Parzani, Antoine Bernheim diceva che i manager italiani non venivano scelti per meritocrazia ma per mediocrazia, cioè